improvvisamente colorati. C'era una volta una città cupa, dove pioveva sempre, dove i raggi del sole si schiantavano sulle nuvole più alte e dove ogni giorno piccole gocce d'acqua cadevano e schizzavano i pantaloni dei passanti. Questa era una città dove non c'erano né colori né divertimento, dove i palazzi erano altissimi, vecchi e al buio, a causa di una strana maledizione che costringeva tutti a restare in silenzio. I canti, le risate, le gioie di un tempo passato furono oscurati dal passaggio di ombre senza scrupolo, che avevano censurato molte parole e avevano rubato i colori di questa città. Prati, giostre, piazze, luoghi dove giocare e incontrarsi, persero colore e bellezza a causa di spietati bugiardi che usavano il loro potere per estorcere denaro alle brave persone e riciclarlo in attività illegali. L'oscurità diventò sempre più pesante, nessuno si sentiva più sicuro. I cittadini erano costretti a portarsi sempre un ombrello, camminavano guardando a terra, perché attorno non c'era nulla di bello per cui alzare lo sguardo. I protagonisti di questa storia sono due bambini, Marco e Fatima. Nemmeno loro vedevano i colori in questa città. Tutto era grigio per colpa della paura. Quando si è spaventati, non si vede alcun colore. In questa precisa città, di cui non possiamo fare il nome, gli anziani e le anziane raccontavano storie in cui i colori erano presenti, sia alla vista sia nella parola. Una volta qui arrivava la luce calda e gialla del sole, che andava oltre le bianche nuvole. Di mattina il cielo si colorava di azzurro, gli alberi di verde e gli uccellini variopinti fischiettavano felici sui balconi. Ora è tutto grigio, perché tutti sono soli e hanno paura. Appena finito il racconto, un'ombra si avvicinava e oscurava le case dove venivano raccontate queste storie. Veniva impedito di ricordare e ascoltare la memoria dei più anziani. Qualcuno diceva a bassa voce che era vietato di parlare di colori o raccontare storie di persone coraggiose che avevano sfidato le ombre. E molti sostenevano invece che non c'era mai stato alcun colore, che i racconti sentiti erano solo fantasie di chi aveva qualche rotella fuori posto. Marco e Fatima erano amici dalla scuola media e condividevano l'interesse per il disegno e per le storie. Delle storie degli anziani restavano sbalorditi. L'idea che esistessero i colori dava loro modo di immaginare mondi e disegni nuovi, attraverso infiniti colori da usare, per rendere tutto più vivo e divertente. C'era però una maledizione che ludeva tutti e tutte, che un posto migliore di questa città, tutta grigia, non fosse possibile. Un giorno Marco e Fatima, di ritorno da scuola, videro un'anziana signora con un ombrello che decise di fermarli. Ad entrambi chiese: "Avete paura?" Un po' imbarazzati, i due amici non sapevano cosa rispondere, ma Marco disse: Io non ho paura di nulla." La signora anziana sorrise e aggiunse: "È impossibile che tu non abbia paura di nulla. Io, per esempio, ho paura di non rivedere più il giallo di questo ombrello." Fatima si rifece coraggio e disse: "Come fa a dire che questo ombrello è di colore giallo? Lo vedono tutti che è grigio. L'ho comprato prima che furono censurate alcune parole, prima che censurassero i colori." "E tu invece, quali sono le tue paure?" "Io ho paura dei posti chiusi, del buio e di essere abbandonata." Fatima diede una leggera capitana a Marco, che disse anche le sue paure. "Io ho paura di restare solo, del rifiuto, di essere bullizzato, dell'ascensore, di morire di fame e della solitudine." Queste paure non possono essere affrontate da sole, c'è bisogno di solidarietà per superarle. Insieme è più facile avere coraggio e vincere la paura, e una volta vinte ritorneranno le tante parole censurate che prima ci davano tanto colore. Mentre finiva di parlare, si accorsero che sulla sua casa iniziava a calare una strana ombra che la oscurava completamente. L'anziana signora, prima di essere risucchiata dal buio dell'ombra, urlò ai ragazzi di allontanarsi e di andare in cerca di un enorme libro magico. I due amici cominciarono a correre lontano e si fermarono quando erano sicuri di non essere più in pericolo. Si chiesero cosa fosse quel libro nominato dalla signora anziana, ma soprattutto cosa volesse significare la parola solidarietà. Deciso di tornare verso casa, Marco era particolarmente pensieroso dalla recente discussione, dalle paure confessate, quando all'improvviso non si accorse di un tombino scoperto e ci cadde dentro. Fatima si affacciò subito e levò un grido. Marco rispose che stava bene fortunatamente e le disse che c'era una puzza disgustosa lì dentro, ma che, avendo paura di restare da solo, aveva bisogno di lei. Anche Fatima aveva paura del buio, ma in compagnia di Marco si sentiva più coraggiosa. Scese anche lei. Si ritrovarono nei sotterranei della città, nel buio pesto della discarica nascosta, dove le ombre smaltivano illegalmente i rifiuti di tutti, tra cui anche giornali e riviste. Dal grande buio, però, vedevano lontana una lucina accendersi debolmente. Più i due si avvicinavano, più la lucina diventava grande. Quando ad un certo punto, oramai vicinissimi, si accorsero della presenza di un libro. I due aprirono il libro, dal quale una fortissima luce accese l'intero spazio, e vi trovarono tantissime parole con le definizioni, tra cui camorra, sostantivo femminile, associazione della malavita napoletana con leggi, obblighi e doveri particolari, lega di persone disoneste unite tra loro per ottenere illecitamente favori o guadagni ingiusti, fare camorra, accordarsi per esercitare prepotenze e agire disonestamente a vantaggio proprio e a danno d'altri. Riconobbero che questa camorra era l'ombra che oscurava e nascondeva i colori, che spaventava tutti in città con i suoi divieti e le sue prepotenze. Coraggio. Coraggio, sostantivo maschile, derivato di cor, cuore. Forza d'animo nell'affrontare con decisione un pericolo, sopportare con coraggio l'avversità, andare con coraggio incontro al nemico, avere il coraggio di dire la verità. Entrambi si resero conto che quel libro non era un semplice libro. Continuarono a leggere. Paura, stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, di smarrimento e di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario, o dinanzi a cosa o a fatto che sia o si creda dannoso. Assume il carattere di un turbamento forte e improvviso, quando il pericolo si presenta inaspettato di sorpresa. Solitudine, sostantivo femminile, derivato di solus solo. La condizione, lo stato di chi è solo come situazione passeggera o duratura. Anche condizione di chi vive solo, dal punto di vista materiale e affettivo. Vivere in solitudine, ne ha più nella solitudine, sentire il peso o la tristezza della propria solitudine. Solidarietà. Sostantivo femminile, un reciproco sostegno. La solidarietà è un sentimento di fraternità che nasce dalla consapevolezza di un'appartenenza comune e dalla condivisione di interessi e di fini, e trova espressione in comportamenti di reciproco aiuto e di altruismo. La solidarietà può instaurarsi tra i membri di un particolare gruppo sociale. La solidarietà è un sentimento di fratellanza universale. due bambini chiusero il libro e si incamminarono nel sotterraneo. Ad un certo punto trovarono una biblioteca dove i libri conservavano il segreto dei colori perduti e raccontavano storie di un mondo diverso, storie di eroi che avevano sfidato la criminalità organizzata, portando speranza e colori nella città. I protagonisti erano disposti a fare di tutto per riavere i colori. Così, dopo un paio di giorni, decisero di formare un vero e proprio gruppo di bambini per affrontare le paure e decisero di chiamarsi improvvisamente Colorati. Marco e Fatima cominciarono a studiare il libro degli eroi coraggiosi, imparando le strategie per sfidare i cattivi. Il giorno seguente andarono con le loro bici ai confini della città, dove era proibito andare. Lì, a fare da guardia, c'erano dei componenti della Camorra, i quali non accolsero con gentilezza i nostri protagonisti. Chiamarono i boss. I bambini erano spaventati e terrorizzati. Stavano per incontrare con lui, che per tutto questo tempo aveva sottratto i colori dalla città. Questi era un tipo alto e pieno di tatuaggi. Con l'aria minacciosa camminava verso i bambini. Nessuno aveva mai guardato il boss dritto negli occhi, ma i nostri protagonisti lo fecero. Affrontarono finalmente le loro paure. Improvvisamente, Marco era del tutto colorato, biondo, con occhi azzurri, vestito con una tuta azzurra. Fatima, invece, capelli neri, occhi scuri, indossava un maglione verde e pantaloni beige. La città riconquistò i colori nascosti. I prati si tinsero di verde, il cielo di azzurro, il sole diventò giallo e finalmente oltrepassava le nuvole per dare luce a tutti i colori della città. Le ombre della camorra scomparirono perché nessuno era più spaventato, grazie al ritorno delle parole censurate, grazie alle storie e alle testimonianze in cui viene raccontato il coraggio di molte persone. Si ha la prova che solo attraverso la memoria, la solidarietà, la legalità e il coraggio si può fermare la camorra e le sue attività illecite per il bene della città, di tutte le persone che ci vivono. Da quel momento, gli improvvisamente colorati furono sempre ricordati come dei piccoli, ma allo stesso tempo grandi eroi. Questo podcast è stato realizzato dalle ragazze e dai ragazzi della Scuola Media Sant'Alfonso Maria dei Liguri per il progetto Onda Pazza, il filo della memoria. Onda Pazza, il filo della memoria. È un progetto che si propone di creare momenti di riflessione e divulgazione sul tema della legalità e della memoria, coinvolgendo 35 scuole di 7 regioni. Onda Pazza, il filo della memoria. Un progetto di Teatro di Eventi. Emilia Romagna. Realizzato nell'annualità 2023-2024 in collaborazione con FNAS. Federazione Nazionale delle Arti in Strada, Stalker Teatro e Crab Teatro, Piemonte, Teatro Invito e Pandemonium Teatro, Lombardia, Emiliano Valente, Emanuele Di Giacomo, Valentina Virgili, Lazio, Pro Positivo, Sardegna, Teatri in Gestazione e Baracca dei Buffoni, Campania. Genia Labarthe, Sicilia. Consulenza scientifica e progetto video a cura di Caracò. Iniziativa realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico.